We're... it's just about 7 or 6:30, so we still have a little bit of time. If you have some questions, certainly, let's hear your questions. Insomma, abbiamo un po' di tempo stasera. Se avete delle domande, possiamo provare a rispondere. Yes, Sofia. Io volevo capire un po' meglio come sviluppare la consapevolezza, come addestrarsi per sviluppare la consapevolezza prima di dormire. E quello che non riesco bene a capire è che se si resta in mindfulness sul respiro non ci si addormenta. Bisognerebbe entrare in torpore per dormire. So she'd like to know a little bit more about how to develop mindfulness before going to sleep. Because if you're mindful of your rising and falling of the breath, then you won't go to sleep. So maybe you should develop a sort of torpor in the mind so that you will slip into sleep. Yeah. Well, the Venerable Master said, Fatnya Burma has recommended to do this mindful, or to when lying in bed and getting ready for sleep, or before falling into sleep, to observe the rising and falling movement of the abdomen. And it seems he did on occasion ask people whether they fell asleep on a rising movement or falling movement. Now, to do this, in order to come up with the answer, one needs to be pretty attentive. And it's basically what Sophia is pointing to. Then, when the mindfulness is really good, then one might not even fall asleep. No, it might happen. Sì, quindi questo è un consiglio che dava il Maharshi Sayadaw di la Birmania, e diceva effettivamente prima di addormentarsi, lui consigliava quando si era sdraiati nel letto di fare attenzione all'alzarsi e all'abbassarsi dell'addome. Lui addirittura poi chiedeva nei colloqui se uno era consapevole del fatto che si era addormentato durante un'alzata o un abbassarsi dell'addome. E quello che può succedere effettivamente è, come diceva Sofia, che se uno è molto attento e molto consapevole del movimento potrebbe non avere sonno. And so the Venerable Sayadaw Pandita, Fatnya Burma himself, Fatnya said on one occasion during an informal conversation that if he focuses too much on the in and out breathing, then indeed he can't fall asleep. Then he's trying to choose a type of mindfulness that is not too intense, not too strong. Venerabile Upandita, in una situazione più informale, così in una conversazione, ha detto che anche lui, se sta troppo sul, per esempio, l'entrata e l'uscita del respiro, le narici, non riesce ad addormentarsi. Quindi cerca di sviluppare un tipo di consapevolezza che non sia troppo intensa. No. See, with the breathing, it has certain, the breathing is special in the sense that certainly it is during the daytime under our influence. So if we want to, we can speed it up, we can slow it down. But during the night, it happens automatically. Quindi il respiro ha questa caratteristica che durante il giorno è un po' sotto la nostra influenza, sotto il nostro controllo, nel senso che possiamo respirare più velocemente o più lentamente, invece durante la notte è automatico. And so if you, or when you're lying in bed and trying to fall asleep, if you focus your attention on the in and out breathing and not too intensively, then you enter over over some time, then from the more active part of the breathing, you then go to that certain breathe, or you reach that breathing that happens suddenly by itself. Quindi se uno prova quando è sdraiato nel letto, prima di addormentarsi, a prestare attenzione all'aria che entra e esce alle narici, e lo fa in maniera non troppo intensa, allora vedrà questo passaggio da un tipo di respiro più attivo a quest'altro respiro più automatico, e in questo modo poi potrà entrare in uno stato di sonno. No. If your mindfulness is somewhat shaky and suddenly intermittent, and you lie there and suddenly, I mean, you think about all sorts of things that make you upset, then obviously you're not going to fall asleep anymore. Però se la vostra consapevolezza è intermittenza, quindi va e viene, e quando siete sdraiati nel letto cominciate a pensare a un sacco di cose, allora la mente si agita e ovviamente non riuscirete a dormire. Okay. So what seems to be helpful is if you focus on the in and out, breathing or rising and falling movement of the abdomen, it's just to label as maybe in out, and be gently aware of what's happening, and then if you're lucky you'll fall asleep. Quindi la cosa che può aiutare può aiutarvi è di stare con il respiro o alle narici oppure all'addome e etichettare come dentro fuori oppure su e giù, e in maniera molto delicata, però è un po' per volta vi addormenterete. On top of what I've said, just in terms of general knowledge, it seems that the modern science has found out that the the thoughts about one's sleep. Now this will make a big difference. So if you go to bed with a thought, I will not fall asleep tonight, I will not be able to fall asleep right away, then it's likely that you will not fall asleep. But if you go to bed with a thought, I will fall asleep, and so in an affirmative way, then usually people fall asleep. Quello che stanno scoprendo in ambito scientifico è che il pensiero o l'intenzione che si ha riguardo al sonno influenza moltissimo quello che poi succederà. Cioè, se voi andate a letto e pensate, beh, io questa notte non riuscirò ad addormentarmi, allora è facile che effettivamente non riuscirete ad addormentarvi. Se invece vi avvicinate al momento dell'addormentarsi con il pensiero, beh, io questa notte mi addormenterò facilmente, beh, questo avverrà. And so I did test this last point, and indeed it seems to be true. E io effettivamente l'ho sperimentato direttamente, pare che sia vero. Does this answer your question, Sophia? Questo risponde alla sua domanda? Sì. Sì. Ok, you're welcome. Ok, and then what next? C'è qualche altra domanda? If there are no more questions, then we can do the metta chanting. Okay, se non ci sono domande, facciamo il canto di metta.